Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa, pronto? Sì. Siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, dottoressa, grazie. Un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. I drammi del tuo cuore li leggo nelle mani, nelle loro falangi, dispendio tirchierie. Forma, colore e consistenza. Tenete a mente queste tre parole, osservatevi le unghie e chiamateci all'800 24 00 24, un numero verde per raccogliere tutte le informazioni necessarie per prenderci cura di questi poveri annessi cutanei, cugini alla lontana dei nostri capelli, che negli ultimi tempi se la stanno vedendo brutta, laccate, colorate, intarsiate, ricostruite. Da quando il loro aspetto è diventato un must, le unghie si ammalano più facilmente, colpa del fai da te, di manicure troppo aggressive e anche dell'uso spesso indiscriminato di prodotti poco rispettosi del loro benessere. Ma non se la passano certo meglio quelle dei piedi, che finita la bella stagione sono costrette ad adattarsi a passare molte ore al giorno in scarpe con punte e piante molto strette, e non potendo ribellarsi che cosa fanno? Cambiano a volte forma e consistenza. Oggi allora accogliamo il loro SOS, ne accoglieremo tanti, sono 20, Deborah, o se ciascuna delle unghie si lamenta, facciamo notte. 800 24 00 24, ci faremo aiutare da un grande esperto. Nel corso della puntata di oggi terremo d'occhio anche un altro argomento, le condizioni del maltempo che purtroppo sta duramente colpendo in queste settimane la nostra penisola. Temporali accompagnati da forti piogge interessano ancora il Lazio, ma oggi le perturbazioni sono attese soprattutto sulla Calabria ionica, la Lucania costiera, il Salento, la Sicilia orientale. Ormai guardiamo le previsioni con grandissima preoccupazione, e a questo proposito nella pagina di Denari oggi approfondiamo un'opportunità che, vuoi per una mentalità italiana che tende a preoccuparsi solo di fronte all'urgenza, vuoi per una sorta di scaramanzia, vuoi anche per la difficoltà economica in cui versano molti nuclei familiari, i nostri connazionali non prendono quasi mai in considerazione la possibilità di assicurare la propria casa, il proprio immobile dai danni causati da calamità naturali, alluvioni o nei casi peggiori il terremoto, ad esempio. 800 24 00 24, ci avete mai pensato? Vi siete mai così interrogati, informati su questo argomento? Quanto sareste disposti a spendere? Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Mi guardo sotto le unghie, vedo nello sporco, lo tengo fatica, lo servo con cura. Sfoderate le unghie, questo è il loro momento. Ricordate le tre parole chiave: forma, colore, consistenza. Tre parole per guidarvi nell'osservazione delle vostre unghie. Ci impresta oggi il suo occhio clinico un grande esperto, il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, Clinica Sant'Ambrogio del gruppo ospedaliero San Donato. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, grazie per l'invito. Sentendo Elio, insomma, noi le unghie le vorremmo soprattutto pulite, certo, così ci piacciono. Sì, poi esatto, se sono belle, curate, ci piacciono ancora io di più. Io e te non ci smaltiamo tanto però, vero? No. A me ogni tanto però viene il trip, poi lo abbandono. C'è il momento in cui mi piace lo smalto rosso e vado di smalto, però alterno sempre periodi di smalto con periodi di riposo dallo smalto. Professore, l'aspetto delle nostre unghie, quindi adesso proviamo a immaginarle senza smalto, fornisce delle informazioni importanti per il nostro interlocutore, perché quando noi stringiamo una mano, guardiamo, l'occhio cade, no? Sulla mano, se è curata, se le unghie sono a posto, pulite, ma fornisce anche molti elementi al dermatologo. Perché sì, si dice che anche un po' come l'occhio, anche l'unghia è un po' lo specchio della nostra salute. È davvero così? Certo, noi dermatologi utilizziamo nelle nostre visite sempre le unghie per cercare di capire attraverso il loro aspetto se c'è qualche problema di carattere internistico. Molte anomalie dei nostri organi si ripercuotono sulla forma e il colore delle unghie, sicuramente. Allora, osservate bene le unghie, 800 24 00 24, Deborah stanno già chiamando, vedo sì. Già le chiamate, stanno già superando la nostra barriera rosa. Altro che, questa mattina il tema è particolarmente apprezzato, evidentemente. Fra un po' allora sentiremo i nostri ascoltatori che stanno già scrivendoci, anche al 349-238-6666. Potete anche fotografare le vostre unghie, sì. Mandarle via mail, perché non so se riusciremo nel corso della trasmissione, ma sicuramente il professor Di Pietro e i suoi collaboratori vi daranno poi un occhio e quindi vi daranno anche un parere sulla salute e sull'aspetto delle vostre unghie. Potete mandarci anche le vostre unghie laccate, dipinte, così magari Deborah, tu e io decidiamo un gusto, così un po' un parere estetico, se farci anche noi un po' di ghirigori. Allora, ne abbiamo 20, professore, per cui lei avrà da lavorare, ma ogni unghia, anche se apparentemente uguale, perché insomma sono fatte tutte allo stesso modo, cambiano le dimensioni, racconta una storia diversa. Cioè, ci sono unghie che sono più fragili di altre, più a rischio sì. Di ammalarsi. Certo, anche perché le unghie sono la loro salute, il loro stato è legato anche alle nostre abitudini di vita. Ci sono unghie particolari, come ad esempio quelle esterne, delle dita esterne, quindi dell'alluce o del mignolo dei piedi, che possono indicarci se indossiamo ad esempio delle scarpe molto strette con i tacchi alti, per cui cadendo verso la punta delle scarpe le dita vengono compresse e quindi l'unghia ne soffre. Certo. Come anche il tipo di lavoro, no? Che si compie possono determinare delle anomalie sulle unghie, e in particolare alcune che corrispondono alle dita che vengono utilizzate di più. Una volta, quando si utilizzava il telefono, no? Le telefoniste di una volta, che dovevano pigiare col dito sempre sulla ruota del telefono. Io ricordo, giovane dermatologo, che il dito era l'indice che si usava di più, l'unghia era quasi sempre alterata, no? C'erano delle anomalie. Adesso siamo sui computer, ecco, chi batte molto sui computer, una delle cause probabilmente di alcune anomalie delle unghie può anche essere legato a questo picchiettio continuo. 800 24 00 24, guardatela, diteci come le osservate, che cosa notate. Iniziamo un po' a lavorare sulla superficie, proviamo a guidare Deborah e i nostri amici da casa, proviamo a vedere se ad esempio la superficie è liscia o un po' fessurata, ondulata. Professor Di Pietro, ci sono altre varianti? Cosa possiamo aggiungere per stuzzicare i nostri ascoltatori e invitarli ad un'osservazione attenta? Certo, ci possono essere delle linee, che possono essere linee verticali che seguono l'andamento dell'unghia, oppure delle linee orizzontali che quindi sono parallele, sono a 90 gradi rispetto alla crescita dell'unghia. Anche il colore è determinante e importante per capire la salute delle nostre unghie. Quindi tutti questi fattori messi assieme concorrono e ci aiutano molto per far capire lo stato, la salute delle nostre quindi unghie. Le unghie dovrebbero essere rosate, a volte invece sono macchiate, ingiallite, imbrunite, cambiano un po' colore, o picchiettate, come certo, un tempo certo. Si diceva, lo dicevano anche a te, ecco, vedi che hai dei puntini bianchi sulle unghie, hai raccontato una bugia. No, questa mi è sfuggita. Si chiamavano così. Ma come no, ma io ricordo di aver vissuto anni della mia fanciullezza fino ai primi anni della giovinezza con questo trauma. Tendendomi le mani, perché ricordo che la mia maestra mi disse, quando io gli chiesi: ma come mai, maestra, ho tutti i puntini bianchi sulle unghie? Lei mi disse: sono le bugie. Io andavo avanti per anni con questo timore. Allora, non siete bugiardi, ma se avete delle macchioline sulle vostre unghie, se la superficie non è liscia ma un po' ondulata, se potete farle, toglietevi anche naturalmente o le scarpe, le calze, osservate anche le unghie dei piedi, che ci danno altri problemi rispetto a quelle delle mani, perché solitamente le unghie delle mani, professor Di Pietro, hanno il problema della fragilità. Quelle dei piedi invece si diventano diverse, si spessiscono perché la pressione esercitata dalle calze sulle dita e quindi nella parte terminale determina una sofferenza delle cellule che producono l'unghia, e la pressione tende anche ad arcuare l'unghia, di conseguenza si spessiscono, assumono questa forma a botte, quindi molto arcuata. Ciò determina anche l'accumulo di cellule morte sotto l'unghia, predispone alle infezioni. Quindi le unghie dei piedi sono diverse già per loro struttura e natura, ma poi le abitudini di vita accentuano questo. Io l'ho sempre detto che vorrei vivere con l'infradito eternamente per lasciare libere le unghie e senza farle spessire. Libera e bella. Alle Maldive magari. 800 24 00 24. Professore, abbiamo capito da quanto lei ci ha detto che le unghie possono ammalarsi e possono anche essere la spia di un problema di salute generale, ma per aggiungere qualche informazione per chi ci sta seguendo, è vero che se il problema interessa solo uno o due unghie si può pensare ad una patologia ungueale, mentre se il problema si estende a più unghie è lecito ipotizzare ad un problema più serio? Mi riferisco ad una patologia sistemica? Certo, infatti questo è il primo elemento che noi dermatologi prendiamo in considerazione. Se l'unghia viene infettata da un fungo o dei batteri, quasi sempre una sola unghia che comincia a essere infettata. Se poi viene trascurata questa infezione, allora si allarga a tutte, certo, le altre. Ma quando in contemporanea tutte le unghie assumono una certa caratteristica, bisogna sempre pensare a dei fattori di tipo interno. Una anemia, malattie polmonari o del fegato danno dei disturbi alle unghie in contemporanea. Quindi noi dermatologi vediamo e osserviamo queste unghie che nello stesso momento hanno cambiato forma o colore. Questo ci indica già verso la diagnosi. Quindi chiamateci per qualunque cambiamento, in bene o in male. 800 24 00 24. Dove andiamo, Deborah? Andiamo a Torino per inaugurare le nostre telefonate di questa mattina. Invitiamo ad esporci il suo caso Gisella. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno per avermi richiamato. Grazie a lei. Allora, dottore, il mio problema è questo. Sì. Buongiorno a lei. Secondo dito dei piedi, entrambi, spessore dell'unghia sul terminale, cioè è diventata doppia. Sì. Sì. Ecco, ho dato i famosi liquidi settimanali, non è passato nulla, continua a essere doppia. Sì. E poi io faccio periodicamente manicure e pedicure da un estetista, le unghie sono gialle. Sì, beh, allora guardi, se è solamente una l'unghia interessata, come mi ha appena detto, ed è il piede, è molto facile che ci sia una compressione sui lati del dito dove l'unghia è anomala, e questa compressione è probabilmente legata anche alle scarpe, se sono troppo strette in punta oppure se porta dei tacchi alti, per cui il piede scivolando in avanti sulla scarpa fa sì che le dita vengano schiacciate, compresse. Di conseguenza le cellule che producono l'unghia, quindi la cheratina che poi forma l'unghia, diventano sofferenti. Questa sofferenza porta ad una anomalia, l'unghia si ispessisce, cerca di reagire a questi traumi. Questa è la prima cosa da pensare, e quindi da osservare e valutare se cambiando scarpe questo può migliorare. Attenzione però, perché se per molto tempo si portano scarpe che comprimono le dita, c'è un'alterazione permanente della matrice, per cui l'unghia rimarrà così perché si è creata una sofferenza cronica, un'anomalia nelle cellule, quindi porta un po' a questo. Sulle unghie gialle invece va valutato qualcosa più a livello internistico e capire anche il manicure. Il giallo a che cosa è un colore che viene associato a quale malattia solitamente, a quale indizio? Dunque il giallo come il pallore delle unghie, quindi le unghie diventano troppo chiare, in questo caso anche il giallo, può essere legato ad un'anemia, quindi a carenze di ferro. In questo caso allora un esame del sangue diventa importante per capire se l'afflusso di sangue, quindi di ossigeno, è sufficiente a quelle cellule per fare un'unghia sana, altrimenti una delle prime sofferenze è questo cambio di colore. Parlavi degli artigli, mi hai fatto venire in mente la strega di Biancaneve, con quelle unghie. Perché molti ascoltatori stanno raccontandoci che, nello specifico, alcune dita di alcune mani si crescono proprio con questa forma, un po' d'artiglio. Sì, ci stiamo trasformando in streghe? Sì. Professor Di Pietro, attento, eh? Beh, ma bisogna vedere se le streghe si manifestano. Siete sempre un po' streghe voi donne, quindi... E questo ci piace. Però sì. Lei, rispondendo alla nostra amica di Torino, ha detto che se le unghie cambiano forma è difficile poi che ritornino alla loro forma iniziale. Certo. Quindi attenzione alle scarpe, questo è il messaggio. Sì. Attenzione alle scarpe e a tutte quelle cattive abitudini che possono distruggere le cellule che producono l'unghia, che sono disposte come una collanina di perle alla base dell'unghia. Sì. Ecco, da queste cellule nascono, si forma la cheratina, queste cellule danno origine alla cheratina e la cheratina si unisce, queste cellule, l'una accanto all'altra, formando poi la lamina dell'unghia. Le cattive abitudini possono essere un manicure troppo aggressivo. In buona fede si cerca di pulire, tra virgolette, l'unghia utilizzando la punta di una forbicina oppure degli oggetti appuntiti come uno stuzzicadenti, ma quando si cerca di togliere quella piccola pelle, la pellicina, viene chiamata il perionicchio, che c'è alla base perionicchio. Dai, che carino. che c'è la base dell'unghia. È come togliere lo stucco intorno ai vetri di una finestra. Quindi si apre la porta e si alza. Se ci facciamo la manicure o andiamo a farci fare la manicure, a volte ci chiedono: ma le pelline le taglia o le tira indietro? La risposta del professore Di Pietro, se lei fosse vicino a noi, cosa direbbe? Io direi che se proprio c'è questa bramosia, c'è questo grande desiderio, sono così antipatiche queste pellicine, tirarle leggermente indietro. Non tagliarle. Ma evitare di tagliarle, perché il voler eliminare a tutti i costi può far sì che entrino all'interno della matrice delle unghie dei germi e alterare. Ancora peggio, questi oggetti appuntiti possono distruggere le cellule. Queste cellule muoiono e si forma una sorta di microcicatrice molto piccola. Se c'è una cicatrice, lì la cellula non funziona più. È come aver tolto una perlina alla nostra collana. Di conseguenza l'unghia non viene più prodotta in maniera uniforme e ciò determina la comparsa di quelle strie verticali, quelle anomalie che molti di noi, molte di voi ragazze qui presenti all'ascolto possono notare, no? Sulle proprie... Quindi attenzione, perché queste manovre, dico in buona fede la maggior parte dei casi, nessuno è così masochista, ma vanno fatte con molta molta cautela. Così come anche la punta delle forbici che gratta sotto l'unghia, perché toglie, tra virgolette, lo sporco, quelle macchie, insomma, qualcosa che tende a raccogliersi sotto l'unghia. Ecco, anche lì è molto pericoloso, perché l'unghia viene scollata dal proprio letto su cui poggia e questo fa sì che entrino dei germi e danno luogo poi a micosi o infezioni varie. Ci aiuterà a capire la differenza. Quando parliamo di unghie, vediamo delle unghie macchiate, pensiamo subito sarà un fungo. Attenzione, bisogna fare delle differenze. Il professor Di Pietro, nel corso della trasmissione, subito dopo i mercati, ci aiuterà a capire. Non sono tutti funghi, ecco, sono sempre funghi. E quindi faremo una sorta di autodiagnosi differenziale. Si chiama così. Sì, sì. Ecco, allora, intanto possiamo anticipare, Deborah, che bisogna ascoltare con grande attenzione, perché Cuore Denari inaugura una sorta di... uno spazio di servizio ulteriore rispetto a quello che già diamo, spesso e volentieri, perché gli ascoltatori sanno che noi nel pomeriggio apriamo il nostro ufficio virtuale e molti ci scrivono e giriamo appunto le loro domande ai nostri esperti. In questo caso facciamo un passo ulteriore, però lo diciamo dopo. Dopo i mercati vi raccontiamo tutte, perché è tempo, e così invitiamo anche a sentire i mercati con noi Loredana, che ci chiama da Milano, e Silvana, sempre da Milano, a cui daremo spazio subito dopo. Non facciamo lanciare i mercati loro? Perché dobbiamo un po' rinfrescare il nostro parco annunciatori. Chi delle due si sente? Loredana? Sì? Annunci i mercati, vada. Ed ora i mercati. Cuore e denari. Roma si sveglia così, sotto la pioggia. In un'ora e mezzo ne sono caduti 25 mm con picchi fino a 40, ma la fase critica ancora non c'è stata. Qualche TG di questi giorni, stiamo tenendo sotto controllo il maltempo, i suoi danni anche stamattina, a quanto pare questo novembre 2014 potrebbe battere molti record di pioggia degli ultimi anni. Avete sicuramente visto in questi giorni le immagini della tromba d'aria che ha colpito Catania, città in cui oggi sono previsti anche peggioramenti, e poi sotto controllo anche i fiumi, ad esempio in Friuli Venezia Giulia, in stretta osservazione per il weekend dovrebbe esserci una tregua, ma da domenica sono previste nuove piogge intense. Le notizie di questi giorni, ma anche la situazione in Liguria di qualche settimana fa, senza dimenticare gli eventi sismici degli ultimi anni, ci fanno riflettere su quanto gli eventi naturali possano danneggiare le nostre città e le nostre case, i nostri posti di lavoro. Esaurita l'emergenza, tendiamo a non parlarne più, a non volerci pensare troppo, ma sappiamo che i rischi ci sono e in tanti casi diciamo che bisognava pensarci prima, un ragionamento che deve valere per le istituzioni ma anche per i singoli cittadini. Pensiamo per esempio ad una polizza assicurativa che difenda i nostri immobili da questi eventi. Questi strumenti esistono, sono poco diffusi, sono un po' costosi, e vedremo se i costi allora possono essere comunque accessibili e come funzionano queste polizze fra un po' nella pagina di Denari. 800 24 00 24, cominciate a prenotare le vostre domande. Oggi è il 15 del mese, ti devo tagliare le unghie. Le vuoi a punta le unghie? Ti piacciono le mie unghie? Certo, non sono belle come... E noi torniamo a parlare di unghie insieme al professor Antonino Di Pietro, che ci racconterà anche come prenderci cura delle unghie, che cosa fare se sono fragili, se si spezzano, ad esempio, cosa possiamo fare? Le unghie delle mani sono un disastro, si spezzano sempre. Il rimedio qual è? Si spezzano perché sono sempre immerse nell'acqua. Sì, non mettiamo i guanti. I guanti, i detersivi, quindi sono sicuramente molto più a rischio per altre ragioni. Ci sono delle sostanze, anche degli integratori, come ad esempio la biotina. La biotina o vitamina H è molto utile per le cellule che producono cheratina, quindi non solo i capelli ma anche le unghie. Quindi la biotina è un ottimo principio attivo naturale. Come anche esternamente può essere utile applicare delle cere. Le cere riescono a far trattenere un po' più di acqua dall'unghia, e quindi idratandola la rendono più elastica e quindi più forte. Un'unghia che si secca molto, perde tanta acqua, chiaramente diventa fragile. E poi proteggerle mettendo i guanti e asciugandole sempre molto bene. 800 24 00 24, vogliamo raccontarvi che cosa abbiamo pensato insieme a Deborah di offrirvi, di darvi la possibilità di prendervi cura della vostra salute, del vostro benessere, di mantenervi insomma in equilibrio. Certo. Oggi e solo per oggi gli ascoltatori di Cuore Denari, solo voi, potranno prenotare una visita per le unghie gratuita presso il centro Vita Cutis, istituto dermoclinico Clinica Sant'Ambrogio, che è del gruppo San Donato, che si trova a Milano. Le visite, attenzione, verranno effettuate nei giorni 28 novembre e 5 dicembre dalle 10 alle 12. Naturalmente i posti sono ad esaurimento, certo. Ma Deborah, che è la donna di Denari, vi spiegherà esattamente che cosa dovete fare. Allora, appena terminata la trasmissione, mettetevi davanti ad un computer e potete prenotare la visita mandando una mail a questo indirizzo, prendete nota: info@istitutodermoclinico.com. La mail deve essere inviata tra le 13 e le 14 del giorno 7 novembre, che è oggi. Che è oggi, naturalmente. Quando viene poi effettuata la visita, Nicoletta? Lo ricordiamo, nei giorni 28 novembre e 5 dicembre, dalle 10 alle 12. Le visite sono gratuite, verranno effettuate solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite. L'organizzazione verrà gestita dal personale dell'ambulatorio di Vita Cutis, Istituto Dermoclinico Clinica Sant'Ambrogio, che provvederà a fissare gli appuntamenti, naturalmente in base alla disponibilità del giorno. Non si prevedono sostituzioni né rinvii, si può telefonare e dire: senta, però ho cambiato, eccetera. Ogni lasciata è persa, esatto. In sostanza il numero dei posti è naturalmente limitato ed esaurimento. E Deborah, nella mail va messo questo oggetto: amici di Cuore e Denari, non mandatela a noi, perché noi non facciamo il CUP, come si dice, il centro unico di prenotazione. Ecco, quindi inviatela a info@istitutodermoclinico.com. abbiamo messo tutte le istruzioni anche su Facebook, per cui non potete assolutamente sbagliare. Dalle 13 alle 14 di oggi, non un minuto prima, non un minuto dopo. 800 24 00 24 invece il numero per intervenire e parlare col professor Di Pietro oggi in diretta. Potete però mandare le vostre unghie fotografate, mandatecene anche di belle, mandando, esatto. Magari un po' laccate, un po', no? Un po' con qualche fiorellino, anellino, paesaggio. Anche Loredana, perché adesso vanno tanto di moda. Loredana, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Eccola lì. Buongiorno, volevo. Buongiorno professore. Questo problema, indice della mano sinistra, solo l'indice, dall'inizio dell'anno ha incominciato a formarsi una fossetta esattamente nel mezzo dell'unghia. Fino a agosto-settembre, nient'altro. Da agosto-settembre praticamente si è formato una specie di bubone duro e indolore alla radice dell'unghia. E manicure non ne faccio, quindi non faccio manicure abituali. Certo, vede, quando c'è qualcosa che capita solo su un'unghia e non su tutte, si tende ad escludere una malattia di carattere interno, quindi si è propensi di più a pensare qualcosa dall'esterno che per qualche motivo ha colpito l'unghia, o ha sbattuto il dito e non se ne è accorta, per qualche motivo ha subito un trauma, in un certo spazio di tempo quell'unghia non è stata prodotta in maniera normale e questo ha determinato questo avvallamento di cui mi parlava prima. Successivamente l'unghia, la matrice ungueale ha cercato di porre rimedio e quindi per un altro spazio di tempo ha prodotto un po' più di unghia del normale. Un'altra ragione di questo ingrossamento di cui mi ha parlato alla fine potrebbe essere un capillare, quindi un vaso sanguigno che si è ingrossato e quindi spinge verso l'alto, dando questa forma un po' più arcuata. Sicuramente una visita da vicino è indispensabile, perché io posso darle un parere così, ma i dermatologi hanno bisogno di vedere. Certo, però direi che ecco, o l'una o l'altra, una delle due dovrebbe essere. È molto probabile che il professor Di Pietro, come si dice, ci abbia preso, si dice così, no? 800 24 00 24, continuate a chiamarci, a scrivere. Professore, ci aiuta a capire queste macchioline che appaiono nelle nostre unghie. Noi liquidiamo e diciamo: vabbè, dai, sarà un fungo, e allora magari andiamo in farmacia e ci prendiamo un prodotto. A volte però non siamo in grado di farci la diagnosi, no? Da certo. Soli, e quindi si sbaglia. Quali sono le caratteristiche che dobbiamo tenere sotto controllo? Beh, diciamo che quando si ha il sospetto di aver preso un'infezione o che sia un fungo, è importantissimo farla vedere a un dermatologo. Noi dermatologi abbiamo a disposizione degli strumenti, in particolare il microscopio, che permette, grattando un po' dell'unghia o tagliandone un pezzettino, cittadino di osservarla e di capire se è un fungo o no, nel caso che ci sia un dubbio. Ma come accorgersi di un fungo? Perché inizia sempre da una parte laterale dell'unghia. Nella maggior parte dei casi è nella parte terminale, sì. Ma può iniziare anche nella parte laterale dell'unghia. Deve esserci sempre l'ingresso di questo fungo all'interno dell'unghia, nel letto ungueale, di solito è sotto l'unghia. Questo fungo trova le condizioni ideali ambientali per poter crescere. Certo. Ecco, e man mano che si accresce si nutre dell'unghia. Quindi noi vediamo questa macchiolina che può essere chiara, ma poi tende a cambiare di colore e diventare scura, quindi sul marrone, e man mano che si allarga l'unghia si solleva perché perde l'aderenza col letto ungueale. Se non si cura è un guaio, perché l'infezione si estende poi anche alle altre vicine. Unghie, soprattutto perché con la stessa forbice, con la punta della forbice o sempre con lo stesso stuzzicadenti agisce sull'unghia malata, e poi con lo stesso oggetto si puliscono anche le altre unghie, quindi si insemina letteralmente il fungo nelle unghie vicine, e quindi l'infezione si propaga. Professore, a tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo: ho problema di funghi, ho fatto tanti trattamenti ma alla fine ritornano, vuol dire che sono curati male? Quindi perché il fungo, se trattato, dovrebbe andare. Il fungo, colpisce l'unghia e va curato fino a quando l'unghia, crescendo, non torna tutta sana. Il guaio è che le cure sono molto lunghe, si parla di minimo un mese per poter guarire l'unghia, minimo, quando l'infezione è vicina alla parte terminale dell'unghia. Certo. Ma se l'infezione interessa la parte più vicina alla matrice, allora quindi a volte sono interrotti prima del tempo, e per cui il fungo riprende perché tracce di fungo restano. Professore, prima di salutarci, perché dobbiamo tra poco dare la linea al traffico e poi passare al secondo tema, mi può capitare, mi prendo un colpo, mi schiaccio il dito nella porta, un male terribile da svenire, veramente, chi l'ha provato lo sa, che cosa si fa? L'unghia diventa nera perché in seguito a quel trauma si è rotto dei vasi capillari. Il sangue non riesce ad uscire fuori perché l'unghia tiene fermo tutto. Le terminazioni nervose quindi vengono compresse, certo. E questo determina un grande dolore. L'unghia pulsa, no? E fa molto male, soprattutto nelle ore successive, nei minuti successivi al trauma. Cosa fare in questo caso? Bisogna decomprimere, si dice, no? La parte colpita. Si prende un ago, lo si mette sulla fiamma in modo da sterilizzarlo, e poi con l'ago incandescente, perché così si fa prima, si cerca pian piano di bucare l'unghia dove c'è tutta la masserella scura e che fa male. A quel punto esce il sangue. Quando qualche goccia di sangue fuoriesce attraverso l'unghia, si decomprime, il dolore passa all'istante. Ecco, un immediato sollievo. Speriamo, attenti alle porte. Professor Di Pietro, grazie anche per l'opportunità. Ricordiamo l'indirizzo a cui possono scrivere dalle 13 alle 14 di oggi: info@istitutodermoclinico.com per prenotare una visita gratuita il 28 novembre e il 5 dicembre a Milano dalle 10 alle 12. Beh, prometto che ci sarò anch'io. Bravo. Quindi potete vengono per lei, questo guarda, tu lo dici, promesso. Grazie. Allora sfoderate le vostre unghie. Grazie al professor Di Pietro per essere stato con noi. Buonissima giornata. Cuore e denari. Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva dalla vita intera, così dolce, nera, nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. E in questi giorni ancora una volta siamo rimasti molto colpiti e anche un po' impauriti dai nuovi enormi danni provocati in tutta Italia dal maltempo. Carrara è in ginocchio, come Genova nelle scorse settimane, ma allagamenti hanno colpito molte città d'Italia da nord a sud, da Venezia a Catania. Ieri, come sapete, molta attenzione è stata data anche alla situazione di Roma, dove addirittura sono state chiuse le scuole nell'attesa della fantomatica bomba d'acqua arrivata poi nel pomeriggio. Queste vicende hanno riproposto all'attenzione del pubblico specifico la questione delle polizze assicurative che coprono i danni derivanti da eventi eccezionali come terremoti o alluvioni. Ieri questo argomento peraltro è stato affrontato anche da Casa 24 Plus, l'inserto del Sole 24 Ore dedicato al settore immobiliare, dove si è evidenziato come di queste coperture assicurative, poco diffuse fra i privati in Italia, ci si ricordi solo all'indomani delle tragedie. Per quale motivo? Lo chiediamo stamattina a Roberto Manzato, a cui diamo il benvenuto, direttore centrale Vita, Danni e Servizi dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione. Benvenuto. Buongiorno. Grazie dell'invito. Che ha delle bellissime mani. Sì, perfette. Unghie, in realtà, sto parlando di unghie. Comunque, torniamo al nostro tema. Invitiamo anche i nostri ascoltatori ad intervenire sull'argomento di oggi. Oggi all'800240024, già qualcuno si è prenotato. Che assicurazione avete sulla vostra casa? Quali coperture? Quanto del vostro budget è impegnato in strumenti assicurativi contro le calamità naturali, senza scomodare il terremoto, ma alluvioni, fango e quant'altro? Le emergenze nelle ultime settimane vi hanno in qualche modo spinto ad informarvi su tutto questo? Dottor Manzato, in realtà però anticipavamo anche che queste polizze non sono poi così gettonate fra le famiglie italiane, perché non c'è moltissima offerta dall'industria assicurativa e sono un po' onerose. È così? Io ho fatto un quadro immediatamente sintetico, poi approfondiremo. Sì, sì, il quadro che lei ha fatto è sintetico ma realistico, nel senso ci sono due mercati delle polizze cosiddette multirischio, quelli dedicate alle aziende, alle imprese, per cui stabilimenti industriali, centri commerciali, catene distributive. In questo caso, che insieme ai fabbricati assicurano anche poi assicurano gli stock tante di cose, merce, no? Certo. Assicurano il fabbricato, la responsabilità civile, lo stock di merce, eccetera. In questo caso, siccome le polizze sono di importo anche rilevante, è possibile per l'assicuratore fare i sopralluoghi, ma soprattutto imporre all'assicurato delle norme e delle precauzioni di difese attive, per poter poi effettivamente poi assicurare quello che è il rischio residuo. Per esempio, si chiede al contraente, all'assicurato, di mettere la merce a una certa altezza, per cui il tirante idrico normale, diciamo, non cagiona danni alla merce. Per quanto riguarda invece le abitazioni, che credo che sia l'oggetto del discorso di oggi, difficile mettere tutti i mobili. No, è molto difficile. Siccome le polizze hanno, ci si aspetta che costino relativamente poco, certo, no? Qualche centinaio di euro, diciamo. Non è possibile in questo caso fare delle sottoscrizioni in cui mando l'esperto per vedere effettivamente dove si trova la casa, eccetera, e soprattutto non è possibile contrattare delle misure preventive che possano in qualche modo limitare i danni. E in questo caso quindi esistono delle polizze che effettivamente nell'ambito delle polizze multirischio coprono determinati rischi, anche le alluvioni, ma sono rarissime le alluvioni, mentre esiste un mercato che è in buona fase di crescita per quanto riguarda i terremoti. In questo caso qui c'è un'offerta molto pluralistica, ci sono tante polizze e quindi si trovano facilmente. Ma quando noi diciamo che l'offerta assicurativa contro i danni da alluvioni, per esempio, è inesistente per i costi proibitivi, cosa vuol dire proibitivo? Ieri, mentre preparavo la scaletta con Marco, stavo pensando che io abito sul Seveso, qua a Milano, e quando naturalmente tracima esonda, noi ne abbiamo tutte le conseguenze. Mi si allaga la macchina, mi è successo un paio di volte anche nell'occasione dell'8 luglio, ti ricordi, infatti. Sì. Io per fortuna abito al terzo piano, non arriva da me, si sono allagati naturalmente i garage. Ma se io volessi assicurarmi contro questa circostanza, intanto l'assicurazione mi direbbe di no, secondo lei, perché abito in quella zona lì rischiosa? Guardi, le poche diciamo polizze che offrono questa tipologia di garanzia specifica, di estensione di garanzia alle alluvioni, in realtà la problematica, al di là del costo che può essere effettivamente alto nelle zone a rischio, è che presentano delle esclusioni rilevanti, soprattutto nel caso in cui il fabbricato che si vuole o l'unità abitativa che si vuole assicurare si trova seminterrato, interrato, piano terra. Perché motivo? Perché effettivamente in certe aree ormai non è più un'alea il fatto che arrivi un'alluvione, una flash flood, insomma l'acqua alta. Che cos'è la flash flood? La flash flood, allora... Come immaginate gli assicuratori, assicurando dei rischi specifici, devono proprio delineare, definire qual è il rischio. Inquadrare proprio il rischio. Allora, l'alluvione tendenzialmente si definisce alluvione come l'esondazione di un tratto fluviale o di un biacino in cui, lago per esempio, c'è dell'acqua. Per cui si rompono gli argini, l'acqua esce assieme al fango e quindi si definisce in questo caso un'alluvione. La flash flood è quell'alluvione che non deriva da un'esondazione di un tratto fluviale, bensì deriva dal fatto che una pioggia intensa in una zona magari un po' a conca del terreno crea un certo strato d'acqua, e quella è definita come una flash flood. Generalmente non c'è tantissimo fango, insomma ha delle caratteristiche molto diverse da quella che è l'esondazione di un fiume, come quelle che abbiamo visto in questi giorni. Allora, 800 24 00 24, due ascoltatori sono già pronti, adesso diamo loro il benvenuto. Volevo solo fare un altro commento con Manzato, no, lo facciamo dopo, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Vuoi andare nella provincia di Ancona o stiamo alla Spezia? Stiamo alla Spezia, sentiamo un po', insomma, nella Liguria. Mattia, buongiorno, e lei il prescelto. In questo periodaccio veramente per la Liguria. Benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie, ci dica. Io qualche giorno fa praticamente mi si è allagato il terrazzo di casa e l'acqua mi è entrata dentro e ovviamente ha fatto del danno. Ora l'assicurazione che ho sulla casa, che ho dovuto fare per il mutuo, praticamente mi contesta il fatto che i serramenti, nonostante nuovi, non hanno retto, e quello è stato il motivo, e quindi diciamo non vogliono pagare, insomma, non vogliono coprirmi, certo, il danno. Tra l'altro, Mattia, in questo caso per il nostro ascoltatore si era anche ulteriormente tutelato, perché agganciato al mutuo generalmente c'è una normale scoppio incendio, no? Per cui Mattia sì, ha voluto poverino, ampliare. Ma poverino, ma poverino. Allora, io non conosco la il polizza caso, specifica, esatto. Però vi posso dire che in generale le polizze scoppio incendio, come le abbiamo chiamate orora, hanno quasi sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, comprendono le coperture per eventi atmosferici. Io non conosco poi la polizza del Signore, però tendenzialmente io vi posso dire cosa dice clausola. Questa clausola dice che la società indennizza i danni materiali diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia e neve. Certo. Per cui se c'è una pioggia che ha allagato in questo caso il terrazzo, ci dovrebbe essere una copertura. Una copertura. Cuore e denari. Perché non gli hai detto il giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono nel velo della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò. E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E non hai raccontato a tutto il paese che io sono un oiettatore? Ma non è vero. È vero. Sono un oiettatore. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice. Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un oiettatore? Sì. No, Sariuccio, no. Dico tutto quello che vuoi. Anatema a te. No, abbassa quella mano. Beh, Totò ci sembrava il personaggio giusto per così oggi riprendere un po' le fila del nostro discorso e alleggerire una puntata in cui parliamo di assicurazioni legate ad eventi calamitosi. Peraltro Portapia adesso si sbriciola anche, hai sentito? Assolutamente. Allora, volevo anche segnalare che dopo, nel corso di Effetto Giorno, ci sarà un'inchiesta di Daniele Biacchessi proprio sul tema di queste alluvioni e dei danni di questi giorni, quindi restate con noi con numeri e casi. E allora Totò, la scaramanzia è proprio la scaramanzia a volte a non farci parlare di alcune eventualità, ma allo stesso tempo diciamo che dovremmo parlarne di più e soprattutto dovremmo pensarci prima. Oggi stiamo commentando le conseguenze di questa nuova pesantissima ondata di maltempo, anche grazie ai vostri interventi. 800 24 00 24, raccontateci se abitate in una zona che è a rischio calamità naturali o nel passato ne avete vissuta. Allontanate questo pensiero o vorreste prevenire le possibili conseguenze di un nuovo evento. Vi ha mai sfiorato l'idea di assicurare? Per peraltro con noi questa mattina il dottor Manzato, Roberto Manzato, dirigente dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazioni. Ho letto proprio qualche giorno fa che il vostro presidente Minucci, in una audizione alla Camera, ha di nuovo sostenuto la necessità che una polizza di questo tipo sia obbligatoria in qualche modo all'interno dei nuclei familiari, e forse se ce l'avessero tutti sarebbero certamente magari meno costose. Insomma, quello che io posso dire è che una scelta di questo tipo, che è stata fatta anche in altri paesi di recente, è una scelta che spetta naturalmente al legislatore, alle istituzioni. Naturalmente il fatto di avere un'obbligatorietà dal punto di vista tecnico facilita l'assicuratore nel innanzitutto poter fare un premio, quindi imporre, certo, un costo più mutualistico, perché se è obbligato ad assicurarsi per esempio contro le alluvioni sia chi abita al sesto piano che chi abita a piano terra, ma c'è un obbligo, si può in qualche modo mediare il prezzo e imporre, tecnicamente, sì, si dice, una certa mutualità, e quindi avere dei prezzi più convenienti, più accessibili, ecco. Certo. Se non c'è l'obbligo, c'è quello che si dice, no? Il fenomeno antiselettivo, cioè si assicura solo chi è a rischio, in questo caso magari, no, nell'interrato, nel seminterrato piano terra, e in questo caso qua gioco forza, i prezzi aumentano. E poi ci sono i casi in cui chi si assicura contro certe circostanze poi si confronta con la cavillosità delle imprese di assicurazione. Sì, io volevo tornare un po' il nostro amico della Spezia deve verificare una cosa, in sostanza deve andare a vedere la clausola che ha nella sua polizza, e probabilmente avrà una clausola che dice che la bagnatura è risarcibile all'interno derivante dalla pioggia se questa bagnatura deriva da una rottura dei serramenti che è causata dalla violenza degli eventi. Mm-hmm. Cioè, se detto in termini molto più semplici, se c'è del vento forte con della pioggia molto forte che in qualche modo ha rotto il serramento, l'ha divelto, cioè l'ha aperto, e quindi non era il serramento, no, dimenticato aperto, e l'acqua è entrata e ha fatto un danno da bagnatura, in questo caso dovrebbe essere coperto se c'è questa clausola. Come ci fa notare un ascoltatore, i serramenti di un non sono degli oblò di una nave, quindi certo, però se l'acqua è entrata, come dire, per stillicidio, non è stillicidio significa che non era tenuta, però goccia dopo goccia. Se invece c'è stata una rottura o comunque un evento violento che ha aperto i serramenti, ha fatto entrare l'acqua, in questo caso c'è la copertura. Quindi ci definisca bene la natura di questo danno, lo richiedo all'ascoltatore di La Spezia, ci scriva a cuoredenari@radio24.it, così magari poi io vado a stuzzicare anche l'assicurazione direttamente. Giusto. Allora, andare da Andrea, che ci sta aspettando. Buongiorno Andrea, l'intervento ad Ancona ogni tanto qualche scossetta di terremoto ce l'abbiamo lì, no? Vero? Eccoci. Posso parlare? Sì, certo. Buongiorno a tutti, signore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, purtroppo è vero, ci sono a volte anche delle scosse di terremoto, però io faccio riferimento a una cosa avvenuta da poco. Il 3 di maggio scorso a Senigallia, dove io vivo, ho subito un'alluvione. Sì. Assicurato, contro l'altro, il mio assicuratore, che fa parte di una compagnia assicurativa tra le più grosse che c'è in Italia, quella che ha fatto razzia di tutte le varie assicurazioni. Vabbè, quindi adesso abbiamo già capito chi è. Naturalmente neanche l'ipotesi del rimborso. Tranquillamente mi detto, eventi eccezionali non si pagano. Che tipo di assicurazione era la sua, Andrea? Sì. Tra l'altro, le chiedo scusa, con un altro mio caro intimo amico assicuratore ho saputo anche che tutte le compagnie presenti sul territorio hanno fatto cartello per dare questa risposta a tutti. Parlo di privati. Allora, sa com'è, noi, Andrea, le assicurazioni le accusiamo sempre di fare cartello per mettersi d'accordo su tutto, per esempio per non abbassare i prezzi dell'RC auto e tante altre situazioni ancora. Allora, l'evento di Senigallia anche lei se lo ricorderà, perché è andato appunto su tutte le pagine di tutti i giornali, su tutti i telegiornali, e anche noi ci ha preso un po' la sprovvista, lo dico da anconetana, non abito lì, ho dei parenti, e effettivamente i danni sono stati incredibilmente alti. Probabilmente anche una zona un po' impreparata a subire una situazione di quel tipo. Come possiamo controribattere a questo assicuratore? Beh, allora, innanzitutto bisogna andare a vedere il contratto. Non è che si può rispondere a un evento eccezionale, ci si assicura anche per eventi eccezionali, dipende che cosa si è comprato. In generale, ecco, l'ascoltatore dovrebbe andare a prendere la sua polizza e vedere le esclusioni. Un'esclusione ricorrente, come dicevamo anche in precedenza, è la seguente: la società non risponde dei danni causati da alluvioni e inondazioni. Se questa è un'esclusione che è abbastanza chiara anche. Sì, operante nel contratto, è chiaro che non è che c'entri l'eccezionalità dell'evento, semplicemente la polizza che ha sottoscritto il nostro ascoltatore non è per quel rischio, per cui copriva altri rischi, probabilmente copriva l'incendio, gli eventi atmosferici, forse il terremoto, non lo so. L'alluvione non è un evento atmosferico? No. Allora, l'alluvione è causata anche ovviamente da un evento atmosferico, che significa dati piove tanto. Poi l'alluvione è quella che vede la rottura degli argini di un torrente, di un corso d'acqua. In ogni caso, se c'è questa esclusione, è evidente che non rientra nell'ambito della garanzia della polizza. E se nel caso ci fosse il cartello, l'antitrust indagherà, magari adesso si metterà anche a lavoro. Devo incontrare il presidente Pitruzzella nei prossimi giorni, magari lo sollecito. Vada metti un po' a vedere. Metti una buona parola. Esatto. Dai, Deborah. Però è molto intelligente la domanda che vuole fare Franco da Padova, che io sentirei subito, che ne dici? Assolutamente sì, Franco, buongiorno. Buongiorno, vi seguo tantissimo e saluto anche il dottor Manzato. Eccolo là, visto. Allora, io vorrei fare una domanda che esula un po' dalle alluvioni, eccetera. No, no, non io esula, è molto pertinente invece, anche se è generica, Franco. Allora, vi spiego un po' il mio caso. Io ho una casa a due piani, sono un po' più alto, diciamo dei livelli dei fiumi che mi circondano. La mia domanda è questa: io vorrei, e che è da tempo questo qua che leggo anche sul plus del Sole 24, che il signor dottor Liera consiglia, allora, un'assicurazione minima che per esempio copra incendio, esplosioni, terremoti, una, diciamo, in ordine di priorità. Una persona che vuole assicurarsi una casa, quali sono le priorità? Certo. Tenendo in considerazione che io ho la casa con i pannelli fotovoltaici e solari. Grazie. Ecco qua, e qua facciamo fare a Manzato pure il consulente, saranno contente le compagnie appunto associate a Dania. Però insomma Franco fa una domanda effettivamente. Allora, noi abbiamo questa polizza legata al mutuo, che è questa, come dire, basica scoppio incendio che abbiamo tutti quanti, qualche volta ce la dimentichiamo anche perché spesso e volentieri, lo sa, ci capita di firmarla il giorno del rogito e poi neanche la ripeschiamo, per fortuna, perché poi non si verificano incendi e scoppi all'interno delle nostre case. Però Franco dice, insomma, io con una certa consapevolezza mi rendo conto che è necessario dare una copertura alla mia abitazione. Quali sono gli elementi che si devono tenere in considerazione? Intanto lui dice, ha una casa di un certo tipo con pannelli solari, per cui le scelte sono molto soggettive. Nel caso dell'ascoltatore direi che dovrebbe valutare, naturalmente l'incendio, magari anche la responsabilità civile, sono dei rischi che magari capitano di rado, però quando capitano possono come dire, mettere gamba all'aria il patrimonio di una famiglia. Per cui i rischi a bassa frequenza, però alta intensità, sicuramente sono i candidati, diciamo, prioritari da assicurare, mentre probabilmente le cose che possono causare dei danni relativamente piccoli, uno li può anche, come dire, autoassicurare, tenerseli nel proprio bilancio, appunto perché sono danni che non mettono a repentaglio la ricchezza, il patrimonio di una famiglia. Le altre cose che potrebbe valutare è appunto per l'impianto fotovoltaico, per esempio il furto, perché capitavano anni fa, ci sono stati veramente moltissimi furti di impianti fotovoltaici che poi venivano magari venduti o riutilizzati nel Nord Africa, insomma sono stati dei casi rilevanti. Poi, essendo una casa, da quello che ho capito, probabilmente anche isolata, anche valutare furto o rapina può essere certo, a patto che ci siano delle cose di valore le questioni del maltempo lei non le ha considerate però. No, assolutamente sì, il terremoto è una cosa che uno considera, perché in effetti capita di rado, ma quando capita il danno è rilevante. Le alluvioni abbiamo già detto, no? Esatto. È difficile trovare una copertura, uno lo può cercare la multirischio, però, che lei ha citato più volte stamattina, che cosa copre esattamente? Beh, generalmente ci sono tre sezioni: copre i danni da incendio e acqua condotta al fabbricato, poi c'è la sezione dedicata ai contenuti, uno può assicurare per incendio o altri danni anche i contenuti dell'immobile, quindi divani, sì, arredi, quadri, eccetera, eccetera. E poi c'è la sezione di responsabilità civile. Responsabilità civile, come voi sapete, chi conduce un appartamento, è proprietario, può cagionare dei danni a terzi. Mm-hmm, sì. E sono coperti da questa sezione della responsabilità civile. La famiglia civile particolarmente molesta, è bene che si faccia l'assicurazione sulla responsabilità civile. Ma una polizza multirischio è omnicomprensiva di questi tre aspetti o li possiamo separare volendo? Quando lei va a discutere, a comprare una polizza, può comprare tutti e tre, può comprare solamente l'incendio, al fabbricato, così, certo, come può estenderlo al contenuto, anche perché poi lei deve andare a valutare ovviamente la somma da assicurare il fabbricato, la somma del contenuto, quant'è la somma che si va a assicurare. Un suggerimento che do, siccome le imprese d'assicurazione risarciscono il danno sulla base del costo di ricostruzione quindi dell'immobile, quindi danni effettivamente che ci sono, non sulla base del valore di mercato naturalmente dell'immobile stesso, sì, per ovvi motivi, bisogna fare il calcolo assieme all'agente dell'assicurazione, all'intermediario, di qual è il corretto costo di ricostruzione dell'immobile, così uno si assicura per la cifra giusta. Mamma mia, eventualità che... Ma non è difficile, realtà... metri no. quadri o metri cubi, se si vuole, per un valore che dipende da provincia a provincia, ma che si aggira attorno ai 1.400 euro al... Quindi esatto, come dire, sì, un parametro di riferimento. No, non è difficile calcolarlo. Certo. Senta, è vero che, lo leggevo ieri sempre preparando questo programma, che per esempio in aree come L'Aquila, duramente colpita appunto dal sisma qualche anno fa, ci si è assicurati poi in massa negli anni successivi, proprio eventualmente per proteggersi da eventuali nuove eventualità di quel tipo lì? Ah, diciamo in massa è una parola grossa, in realtà se uno va a vedere... Sono aumentate, assolutamente. Mm-hmm. Perché quando ci si scotta, purtroppo... Quando ci si scotta, se il ricordo è vivo, naturalmente si è più previdenti e quindi si tende quanto ad assicurarsi di più. Quanto costa assicurarsi in una zona di quel tipo già colpita da un sisma di effetto così importante? Perché poi l'assicurazione dice, là è già successo, in quel modo se ricapita di nuovo... Dipende molto dal piano tarifario delle singole imprese. Esistono fra l'altro anche delle imprese che offrono dei preventivatori online, per cui io consiglio sempre agli ascoltatori di farsi un giro anche agli intermediari, ma anche direttamente da casa su internet per farsi fare qualche quotazione. Ora, l'estensione di queste polizze al terremoto può costare da... cifre attorno ai 100 euro, anche più contenute in zone a basso rischio, fino anche a cifre 10 volte tanto, per cui qualche centinaio di euro, fino ad arrivare anche in alcuni casi di zone particolarmente a rischio, anche a 1000 euro, in questo caso qui, dipende. 800 24 00 24, se volete continuare appunto a prenotare i vostri interventi, ad esprimerci le vostre curiosità su questo argomento. Un ascoltatore appunto scriveva, adesso me lo sono perso, ovviamente c'è chi contesta l'indicazione che abbiamo dato prima, ma che è del tutto un'ipotesi, è una discussione in corso ma che non ha nessun risvolto concreto al momento, la polizza per tutti contro il terremoto, anche perché chiaramente in molti dicono ci manca pure quella che sia obbligatoria, già abbiamo l'auto con tutte le spese anche della famiglia, effettivamente Manzato. È un ragionamento complesso. Siamo perfettamente consapevoli che nell'immaginario collettivo un obbligo equivale tendenzialmente, si pensa alla tassa, no? Sì, perché le tasse sono obbligatorie. Però se ci pensate, se facciamo un pensiero aggiuntivo rispetto a questa prima risposta, un po' direi di pancia, in effetti in realtà l'assicurazione è un atto di previdenza, di mettere in comune, creare un pool di persone nel quale le persone più fortunate, che non hanno ricevuto diciamo dei danni, cedono della mutualità alle persone più sfortunate che le hanno ricevute. Sa che nell'auto questo è un discorso che fa molto arrabbiare conducenti virtuosi, che dicono ma perché io devo pagare anche per chi invece, come dire, si comporta sempre un po' in maniera leggera al volante. Allora, c'è Paolo da Venezia, vogliamo ascoltarlo? Sì, anche perché ha 40 secondi di tempo, quindi deve pure essere sintetico, poverino. Paolo, veloce, rapidissimo, buongiorno. Sì, buongiorno a lui. Allora, io chiamo solo per questo. Ho sentito alcuni interventi, in particolare quello di Senigallia o comunque eventi molto particolari. Sì. Io mi occupo del settore, non vendo, però sono lavoro nel settore e prevalentemente noi vediamo preventivi o confrontiamo preventivi o comunque siamo coinvolti perché nella maggior parte dei casi l'unico parametro è il prezzo del contratto finale. Sì, certo. Certo. Paolo, guardi, non riusciamo a sentire un po' di più, ma il nocciolo della questione l'abbiamo capito, naturalmente. Ci si vuole assicurare pagando poco e naturalmente poi sperando che l'assicurazione copra tutti i danni. È questo che ci piace. Questo ci piacerebbe molto. Però avrei voluto sapere, non può se fare poi spiegare con Manzato che le assicurazioni rimborsano anche spesso e volentieri, insomma, questo perché altrimenti non esisterebbero. Comunque ce lo verrà a raccontare un'altra volta. Grazie intanto. Grazie a voi. Buon lavoro. Buona giornata. Cara, buon weekend. Anche a te. Noi torniamo lunedì? Assolutamente. Molto bene. Alle 11 noi vi aspettiamo. Intanto scriveteci. Cuore e denari.